Marino e alla conduzione tecnica Simone. Basta e sentirsi vivi costa il senso degli uomini in verticale ascesa, riuscire a mangiare e poi dormire con la luce sempre accesa, sempre accesa. Che spinge le intuizioni, ma semplicemente noia, paura di perdersi, difendere i confini e allora controlli e come Ulisse poi distruggi senza senso. Ma sogna immensi, c'è una terra da spartire e infliggere le regole, distruggere per costruire davanti ai cieli immensi che non puoi desiderare, infliggi le tue regole, distruggere per conquistare. La verità, non stai tornando a casa, stai solo cercando tregua, perché i cani mordono e mordono gli errori e morde la fame del branco che ti tiene sempre fuori. Ma sotto i cieli immensi c'è una terra da spartire e infliggere le regole, distruggere per costruire davanti ai cieli immensi che non puoi desiderare, scolpisci le tue tavole, distruggere per conquistare. Ma sotto i cieli immensi c'è una terra da spartire e infliggere le regole, distruggere per costruire davanti ai cieli immensi che non puoi desiderare, infliggi le tue regole, distruggere per conquistare. E non è l'ascesa. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi, simpatici amici. Ciao, simpatici amici. Ciao anche da me. Questa voce che disturba. E va bene, vi presentiamolo, perché stasera scalpita, scalpita, non riusciamo a tenerlo fermo, è Marzi. Stasera con maglioncino nuovo, No, ma la magliettina. Sono tutto di rinnovo per il vostro e mio piacere. Per il vostro, non lo so. Ma parliamo per il nostro... di noi. No, allora, intanto, la data. Giovedì 12/12/2013, ragazzi. Che nel calendario Maya praticamente non esiste, perché Maya a quest'ora... erano finiti da un annetto. Ma che cosa, di che cosa stiamo parlando? Cioè, non abbiamo simpatici detto il amici. Titolo del nostro questa programma. Questa è Piazza Alta. Dalle magiche frequenze di Radio F. Radio F dal 1976. Sara, salvaci tu. Bene, sì, arrivo. No, dunque, siamo partiti con un cantautore che è il cantautore preferito del nostro Simone alla parte tecnica, vero Simone? E niente rimarrà impunito, chiaramente, cari amici che ci ascoltate. Ma come fate così ad ascoltarci? Ve lo dico stasera, io, visto che bravo, ecco, diccelo tu come facciamo. I compagni di viaggio sono un po' catatonici stasera. Ci potete ascoltare naturalmente aprendo bene le orecchie e venendo qui in Piazza Alta a Foiano. Vengono su. La finestra è sempre aperta. No, su non potete venire. Nonostante perché... la nebbia che vi avvolge, se siete da queste parti, se siete in Australia, è primavera inoltrata. Per ogni dove. Perché ci possono ascoltare anche in Australia, vero Marzi? È chiaro, perché... in streaming internet, che bellissima invenzione. E qual è il sito internet da cui poterci auscultare? www.radiof.it. Bravo. Oppure, ma non solo. Prego. Ce n'è di più. Scaricando... la app. Scaricando no, non va bene. Non va bene. Diciamo, applicando. Scaricando l'applicazione. Applicando. Fate un bel download. Va bene. Applicando per sia iPhone che per Android. Okay. Perfetto. Oppure domani, perché i nostri ascoltatori sicuramente ci vorranno risentire anche domani quando noi caricheremo questa puntata sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta. E salutiamo gli amici. Fino, sì, a quanti amici siamo arrivati? Allora, tu che tieni tutto sotto controllo. L'obiettivo di questa sera è arrivare a 200 amici. E a quante siamo? 198. Intanto riuscire a non perderne. Che già sarebbe fantastico. Due I like, due ditini, ma che cosa vi costano? Connettetevi e cliccate. Intanto io voglio perfetto salutare, ho fatto vita sociale e voglio salutare Alessandro, Andrea e Valentina. Dove li ho trovati? Alessandro, dove li hai trovati? È l'analista, Andrea è il figlio dell'analista. No, oggi ho avuto un quarto d'ora d'aria, mi hanno lasciato per un il quarto corso. Quarto d'ora, da solo? Sì, no, sono caduto, erano i tre che mi hanno soccorso. Era un regalo di Natale, vero Marco? Ottime prospettive per la trasmissione. Ce lo siamo giocato questo regalo di Natale? Ma veniamo a noi. Come stai Marzi? Sì, il menisco ce lo siamo giocato, ma siamo un po' indietro con il listo. Oltretutto soffre anche di cervicale, ho scoperto stasera. Questo sabato. Tu questo fai girar, dice che vede le stelle. Mi fai dice girar che... come fossi una... È una seratona. Questo giovedì, il nuovo sabato per tutti voi. Perché è il nuovo sabato? Perché ci siamo noi. E quindi... Allora facciamo così, diciamo di che cosa parleremo stasera e ce lo dice la Sara perché anche certo io e Marcello no, certo non lo sappiamo. Sì. Argomento della serata, attenzione, mi raccomando, attenzione. La so, aspetta, faglielo aspetta, dire. Aspetta, allora in realtà sono due, sì, cinte murarie e porte. Se di era che cosa? Cinta senese preferivo, viste le mie dimensioni. E appunto, porte. Allora, sì, e porte, ma di che cosa, le ragazzi? Le porte delle perché... cinte murarie. Ricordiamo sì, che stiamo facendo la storia di Foiano, del nostro paese. Vedi, Piazza Alta, il nome appunto che si riferisce, che fa riferimento a Foiano. E quindi ogni sera vi introduciamo magari a cose che possono sembrare banali. Tutti noi, tutti i foianesi passano per il paese e non si accorgono magari di alcuni particolari che stasera andremo ad illustrare. Insieme ad aneddoti, personaggi, storie di stile vasariano. Di vasariana memoria. Scusate, pardon. Brava, brava Sara, la peggio di tutti noi. Brava, brava, brava. Fast, questo è il nome dell'artista che avete appena sentito, che... che pensate suona con una chitarra acustica con tre sole corde, che sarebbe Giovanni Veloce per noi. No, Giuseppe lo svelto. Ci sono interferenze comunque. Fortissima. Allora, state a proposito di F come fortissima, sì. Volevo salutare il nostro amico Sandy che fa il mercoledì sera lo Sugar Night, storico programma di Radio F. Fantastico. Gli mandiamo un saluto. Ciao Sandy. Senti, Mandy. Senti me. Perché deve rovinare tutto? Perché alla fine era così bella questa cosa. Ma noi siamo fatti così. Io faccio le cose belle, creiamo e distruggiamo. Perché? Ma vediamo a noi. Allora, vediamo via, noi, cominciamo questo viaggio all'interno di Foiano della Chiana. E noi stasera sfideremo anche la nebbia. La assolutamente. Ma perché vi porteremo ad immaginare. Certo, quelle che sono così bravi da descrivere. La cinta muraria. La so. Aspetta, no. Aspetta, fagli fare la domanda. Allora, prova pulsanti. Attenzione, attenzione. Inizia Enzino. E ora Marzi. D'altra parte, ognuno di noi ha la prova microfono simile, che si merita. Simile. Perché poi voglio dire, con la cinta, se fosse cinta senese, cinta appunto, senese, ci starebbe proprio bene. Ha una lieve cinta, infatti. Guarda. Si chiama Gota questa, Gota. La facciamo poi una foto. Assolutamente, e la metteremo online sulla nostra pagina Facebook. On the web. Ecco, questo è il miglior amico di Marco. Senti, ho bisogno di cultura. Vogliamo. Facci questa domanda che noi siamo perfetto. Pronti. Perfetto, e allora partiamo proprio dalle cinte murarie. Bellissimo. Innanzitutto, quante sono? Beh, direi due. Siamo questa, d'accordo questa la su questo? Sì. Ok, sì. Perfetto, e allora partiamo dalla prima cinta muraria. Enzino, vai. Sono emozionato. Allora, vai. Innanzitutto vorrei dire questo. Grazie a Scanio per le foto. Tra un po' andranno sulla nostra pagina Facebook le foto di quello di cui stiamo parlando. E ringraziamo Scanio che ha fatto tutte queste foto. E che tra poco, ha il copyright di queste foto. Photographer. La prima cinta di muro. Allora, prima di tutto va detto che sono le origini di Foiano sono antichissime. Ma si perdono nella memoria, ma proprio non me lo ricordo. Che giorno era quando era stato fondato Foiano? Dunque, era sicuramente un lunedì. No, perché le buone cose si iniziano con il lunedì. Non puoi partire un'avventura di Venere. Infatti, Dio creò la Terra di Marte. Di Venere e di Marte. Ci si sposta. Comincia l'arte. Allora, dicevo quindi che risalgono, erano di lunedì, ma risalgono addirittura al IV secolo avanti Cristo. E quindi chi c'era? Chi l'ha costruito? No. Ora, non c'era nessuno. Vuoi nessuno. Vuoi nomi? Era Liso. Teurumustus. No. Allora, diciamo che sono stati trovati tracce di insediamenti etruschi, ovviamente, chiaro, a Foiano. Vabbè. Lì però, voleva arrivare. Brava. Agli etruschi. Ne parleremo un'altra volta. È da lì che partiamo. Memoria. Ma... gli etruschi di Vasariana memoria. Guarda, l'avevo anche scritto qua su in cima, per dire, no? Allora, ecco. Allora, fatta questa doverosa premessa che la storia di Foiano risale agli albori, è vero. La civiltà umana. È vero. Facendo un salto temporale arriviamo all'anno 1000 ed è lì che si colloca probabilmente la costruzione della prima cinta muraria nell'undicesimo secolo. Questo chi ce lo dice, Marcello, secondo te? Ce lo dice secondo me ritrovamenti storici, o meglio, questo perché ci rifacciamo a degli scritti. Mi viene in mente che c'è ora mi sovviene. Sì. Tal Fatucchi Alberto per l'amor. Addirittura ha fatto più di 150 pubblicazioni. Ti è uscito una posa da ha fatto più di 150 pubblicazioni. E dal quale traiamo questa prima collocazione storica intorno all'undicesimo secolo. Sì, perché pare che in questo scritto che cita il Fatucchi menzioni l'esistenza del Castellum. E questo è anche confermato da chi, Marcello? Ah, qui mi trovi veramente Jean-Pierre Delumeau. Ma Delumeau mica. Che è un medievalista francese, a quale vorrei domandare. No, pensavo se fosse oggi spagnolo, Marzi. Con tutte le bellezze della Francia. Con la tua pronuncia mi sembrava spagnolo. Proprio parlare di Foiano. È venuto qua, gli interessava. È rimasto affascinato, è l'ombelico del mondo, non lo sapevi. Se c'è venuto Jean-Pierre Delumeau. perché non possono venire tutto il mondo intero a vedere, a visitare il Foiano qui a Piazza Alta soprattutto. Chiaro. Intanto iniziano ad ascoltare noi, poi proseguiremo forse con la prima cinta muraria, perché altre certo. cose avremmo da dire. Ma lo per sapete, ora abbiamo fatto un'introduzione, un dato tecnico. No, adesso no, la prima cinta muraria, ma diciamolo dopo, dai, diciamolo dopo. musica Pathos. E allora ho ufficialmente perso i due co-conduttori perché si sono persi a guardare l'immagine di quella che avete appena sentito, questa cantante che si chiama Beatrice Antolini Marzi. Devo dire che io sulla musica emergente sono particolarmente ferrato e sei per gli autori invitare, emergenti, insomma, per approfondire tutto questo settore, soprattutto le cantanti. Qual era il titolo di questa canzone, Marzi? Mi te vurria vasà. Che però tradotto in linguaggio internazionale in era Peace of Moon. Peace of Moon, signore e signori, votate. Che vuol dire? Il pizzico sulla luna. ascolta, non è che ho fatto sì. proprio tutto il corso completo no, del, del British a che lezione Institute. Sei? No, del British Museum? Sono arrivato all'articolo determinativo. Il problema è che quando gli si accavallava la lezione di, di inglese con lo psicanalista, l'analista e quindi ha scelto l'analista. Guardate, è un adesso abbiamo anche l'ortopedico. No, è un periodaccio perché con questa nebbia già ho difficoltà a trovare me stesso. Se ho difficoltà a trovare anche l'uscio di casa diventa veramente incredibile. Allora perché ci hai trovato questa sera, Marzi? Perché potevi continuare a vagare nelle cinte murarie di Foiano. Ma guarda gli agganci che trova proprio, la Sara. Guarda che ha proprio proprietà di linguaggio. Mi hanno ingaggiato per questo, per fare quindi, da cerniera. Ciao simpatici amici. Mi sembra di capire che tu ci stia per chiedere. Sì, esatto. Continuiamo a parlare però della prima cinta muraria, perché lì eravamo rimasti. Sì, eravamo rimasti allora, alle misure. Sì, alle misure. Appunto, alle misure. Pronti? Vabbè, siccome non avevo capito. È sempre una questione di misura, capito? Rispondo io. Eccolo lì. Ah, ero partito dicendo: sapete bene, ma pensate le opere. Che pensate l'opera che facevano una volta. La prima cinta di mura sì, una volta. È larga 1,5 metri mediamente. Larga, proprio la larghezza. Allora, storicamente nel 1383 il nostro amato paese passa sotto il dominio della Repubblica Fiorentina e vi rimarrà fino al 1531. Ma lo senti che dizione? Ma l'hai visto? Proprio, quando legge è veramente bravo. In caratteri cubitali, esatto, sì, per la nebbia. Ma perché siccome c'è nebbia anche qui. No, ma questa è una cosa, se mi permetti, di tu parole, io. Prego. Sì, perché nel 1389 la prima cinta muraria, quella di cui stiamo parlando adesso, viene completamente ricostruita in cotto e mattoni. E questo la rende. Le tende sono state fatte in trapuntato e poi è stato usato un grass di Vasariana memoria. Porcellanato. Io vi adoro. Per vi i pavimenti. Vi adoro. Ma la cosa simpatica e stranissima e unica di Foiano è che la forma della cinta ovale ottagonale è unica nella zona, ma proprio non potete cercare quale zona, zona della Val di Chianti, dell'Aretino tutto. Però ogni dove. E per quanto si sviluppa, Marcello, questa cinta? Per quanto si sviluppa? Ha un perimetro, io direi, a occhio. Così. A occhiometro, sì, dai, di 400 circa. Metri circa. E l'altezza media ecco, di questa qui cinta? Sono un po' più, circa una decina. Sì, ha misurato. L'ho visto pollice, io la settimana scorsa. Pare che questa ha ricostruzione. Ha passato tutta la settimana a misurare l'altezza della cinta. Guarda che i fiorentini erano avanti. Pare che tutta questa opera sia stata fatta con i contributi per le ristrutturazioni anche all'epoca dei traibili. Quindi. Vediamo. È arrivato l'arrotino. Ripara coltelli, ripara ombrelli, rimette a posto mura che cadono. Se può interessare. Tanto per rimanere in tema, perfetto. Ma i bastioni. I bastioni, dei bastioni io ne parlerei. Gli orioni, quelli di orioni. Ma tra l'altro no, è vero, hai ragione, perché tre bastioni rimangono ancora visibili nel nostro paese. Grazie all'arrotino che li ha riparati. Si riparano anche i bastioni. Tra l'altro c'erano anche dei bastioni che a volte andavano tutti in un verso e questi tornavano indietro. Ricordo i famosi bastioni contrari. Non ci posso credere. Musica. Please accompany this Questa musica è, direi, un ponte sugli oceani, perché pensate, è un duo, ma come si fa? Meraviglioso. È un duo che unisce Lecce con New York, ragazzi. Voi vi distraete a guardare delle facce così carine. Abbiamo, che bello, Marzi. Appena pubblicato su Facebook, sulla nostra pagina Piazza Alta, il primo particolare della serata di Marzi. E vi dirò, sì, guardate che però carino. Il mio miglior... Però, come sempre, c'ha qualcosa che riluce. Di profilo però vengo meglio. Il mio profilo greco, diciamo, di prosciutto, direi, certo. Di prosciutto. Parlavamo di cinta. Che carino. Sì, tanto per rimanere in tema senese. Vero. Allora, la prima, che dite? L'abbiamo esaurita. Enucleata. Abbattuta? No. No, abbattuta assolutamente no. Abbiamo ancora lì per rimarrà, insomma, per secoli e secoli a venire. E via. Perfetto. Quindi direi che possiamo passare alla seconda cinta. E ce n'è di due, Mura, basta, a Foiano. Ma prima di fare questo salutiamo, ragazzi, anche gli amici di All Time of Rock che ci precedono, certo, il mercoledì alle 19 sempre su Radio F. Hey boy, hi guys, hey again. How are you? What's in Walla? Questo da Margatto. Perfetto, ragazzi. Azione, ciao, sorbiana. Un abbraccio a tutti e un salutone tempo. Bene, Marzi, okay, ritorna in te, su, vai. La seconda cinta di Mura che ancora deve farcela come domanda. Lo sai, allora, che sei talmente avanti che stai tornando. No, mi devo aspettare, scusate, perché la foto, sennò... la foto l'abbiamo caricata della seconda cinta di Mura. Fra no, un po', fra un po' andrà. È quella, ora, che riluce. No, sì, può darsi. Prego, Zara. Va bene, e allora direi che è arrivato il momento di parlare della seconda cinta murata. Enzino si è prenotato, Enzino, effettivamente, no, t'ha battuto, certo, non è che si è, sì, prenotato, sì. T'ha, non, battuto. Ero pronto, non ero pronto. Tra poco troverete anche un paio di foto della seconda cinta di Mura, vero? Anche un paio d'ali. Anche. Volare, allora, via. Perché intanto si è creata la necessità, si è avuta la necessità di fare una seconda cinta di Mura se già ne avevamo una? Secondo me un giusto, po' per proteggere, giusto, per abbracciare, un abbraccio, no, Marzi, sì, perché, paterno. Sì, perché si erano creati dei borghi nuovi, cara la mia Saretta, si erano creati dei borghi nuovi all'esterno della prima cinta muraria e quindi la famosa Mura Castellane. Di tant'è cui la famosa frase Castellana, no, c'avevo un lattante, via, via. Ecco, ma si era creata questa necessità, ma poi anche per l'importanza strategica il che il bersagliere. Che il castello aveva avuto in quei sì, secoli, per cui i capitani di parte Guelfa. Cioè, nel 1476 decidono di costruire una seconda cinta di Mura. E che periodo era quello? La luna nera. Perché non lo so. Perché? Ma che gli abbiamo dato stasera da bere? Ma aveva preso un caffè. Ma era corretto, sì, sicuramente. Ma e no, gli ha detto di non darglielo corretto. Ma dopo lui ci ha messo dentro la pasticchina solita delle 9.30 e eccoci alle 10.30. Mi fa reazione. Senti, sì, iniziata nel 1476, Marcello, quanti anni ci avranno messa per terminare? Io sono terminarla? Rimasto male quando ho visto questo dato. Solo 4 anni per fare tutta la seconda cinta di Mura. Quindi oggi sarebbe impensabile. Impensabile, esatto, assolutamente, sì, è vero. E ma questo giustifica, chiediamolo, un po'... Ah, scusami, prego. No, prego. Anche la costruzione delle piramidi, direi. Certo. Beh, i nessi storici e logici. Da Foiano agli Etruschi, alle piramidi. Ma chiediamo anche a Simone. Ai Maya. Ah, è vero, siamo partiti dai Maya. Chiediamo a Simone questo, visto che lui se ne intende. Ma 4 anni sono pochi per costruire la seconda cinta di Mura. Sarà forse questo un nuovo caso di abduction? questi sono dei siamo dobbiamo stringere. Sì, perché ci dicono allora che... un'ultima particolarità, la seconda cerchia di mura è fornita, era fornita, anzi perché una non abbiamo più, di tre porte torri. E qui viene il bello, signori e signori, qui c'è il segreto di Foiano. Sì, la porte, e non ve lo diciamo. Ci sono tre porte, erano quattro, una è mancante. Da qui inizia il nostro viaggio. Ma non è, poi, ma non è così, però perché? Facciamo finta che sia così. Il perimetro però all'interno di la seconda cinta muraria è doppia quella che era la prima cinta muraria. Infatti sono circa 800 metri. E noi li abbiamo misurati. Perfetto. Tutti. Io li ho misurati veramente. Certo. Ieri sono andato con la macchina. Con la fettuccia. Con la macchina, invece Marzi a piedi. A piedi, a passi. Circa 1700 passi. E via, e via. Simpatici amici, siamo entrati nella dimensione della disco dance. Alemano! È l'amore! Allora, pensate che l'artista che avete appena sentito, il, di mestiere fa il produttore, routine, ogni tanto è arrivato anche, e ha collaborato, pensate, con artisti del calibro di Mika. No, ma Mika, lo conosci? Mika. Allora, vediamo se conosci questa, Lady Gaga. Qui vicino c'è la sua amica. Gossip, non li puoi Gossip. Conoscere. I Prodigy. Prodigy sono dei veri, sì, sono dei veri questi prodigi. Sì, eh. Questi sì. Sì, eh. Li mettevamo io e Enzo in radio nel lontano 1976, quando l'acqua è proprio no, non è reattivo, vedi, gli sta calando l'attenzione. No, già oltre. I Prodigy mi hanno rituffato in un passato che torna. No, no, signore, non ci pensare perché l'analista adesso non c'è, io non ho intenzione di esserlo. Il tuo analista che parla, siamo a bordo del volo Piazzalto della compagnia Radio F. Durante il volo potrebbe accadere di tutto, per cui tenete vicino il paracadute e anche un sacchettino di carta, vero? Bene, mi raccomando, l'importante è non prendere le cinte murarie di Foiano, perché poi possiamo allacciate le cinte murarie. Ma non, eccoci, io l'ho anche servita. Vabbè. Stai peggiorando, Sara. Però, di verità, stai peggiorando. Qui l'unico che mantiene il controllo è Simone, vero Simone? Sì. Bravo. Allora, tra un po'... Ah, sì, la cosa bella, sì. Scusami se ti interrompo, perché c'è Marcello che è già pronto con la risposta e ancora non hai fatto la so. No, ma infatti, e adesso io continuerò a parlare perché tra circa, 2-3 minuti, non lo sappiamo, arriverà il nostro fotografo che verrà a fare le foto. Photographer, è professional. Sono aperte le scommesse, ma secondo me. Non siete emozionati. No, si sente profondamente a disagio. Dai, si è vestito un pochino meglio dell'altra volta. Era impossibile peggio, voglio dire. No, può fare di peggio. Io di questo ne sono certa. Però, allora, a parte che è in tono con la serata, sì, perché dai, la maglia prevede varie sfumature di grigio. Sono qua. Fate di me ciò che volete. Solo che lui è triste e non l'ha capita, tra l'altro. L'ha capita. Lui fa finta, vero? Ora, no, nel periodo estivo, quando metterò le mie bellissime grigio topo, si parte dal camicie grigio di lino color canarone. Poi le camicie di lino, no, ti prego. Canzoni rosse, quella Ferrari. Ma quella magliettina blu, quella sotto. Quella sotto. Tra l'altro aveva detto che si era depilato, non è vero, perché vedo. Quindi potete immaginare già. No, io sopporto tutto. Magari potreste creare nel genere horror, questo potrebbe piacere. Creare aspettative. Ma tra l'altro, tra un po' sarà venerdì 13, quindi è perfetto come genere horror. È avanti. Abbiamo capito, sei avanti. Non toccate quella cosa. Facci la domanda velocissima. Va bene, andiamo con la domanda. Allora, prima parlavamo di porte. Allora, io direi di partire dalle porte della prima cinta muraria. Allora, mi sono prenotato e voglio dare la risposta. Per forza, è 3 ore. Sappi, che stai Sara, leggendo. Che della prima cinta muraria è rimasta solamente un'unica porta, che una si chiama sola. Porta del Castello. Ma porta che te voi... che si trova nei pressi della collegiata. Questo è forse lo scorcio più bello del nostro paese ed infatti negli ultimi anni viene usato spesso come palcoscenico naturale per i concerti, sfilate e spettacoli di varia natura. Va bene, del tipo, non lo so, citane qualcuno. Ora, di varia natura è vago. Quanto è bella vedervi. Io ho la fortuna rispetto agli amici a casa di potervi anche vedere le facce. Che tipo di spettacoli? Insomma. Oh, delle sfilate. Voglio dire, le sfilate sono sfilate. Gli spettacoli spettacoli improvvisa. Che spettacoli si faranno mai? Non lo so. Allora, un'altra flamenco. Curiosità riguardante la Porta del Castello è che negli anni 70 nei locali sottostanti c'era la sede di uno dei club storici, probabilmente il più famoso di Foiano. Quale? I Lumacons. Ma dei Lumacons ne parleremo ancora in un'altra puntata, perché questa io sono curiosa propedeutica. Questo è solo un lancio. Esatto. Però perfetto. Ti posso dire, Sara, qual era il motto dei Lumacons? Con questo poi andremo nell'aire con un'altra canzone. Nell'aire anche 2-3 volte. Il motto dei Lions era Fiorin Fiorino. Non era dei Lions, dei Lumacons. Lumacons. Piccolo saluto agli amici dei Lions, dei Lumacons, tutti gli amici. Lo dico la prossima volta. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. You give me this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes your shit, their skins. Fuck tones, pulling out my sins. Even though I realize that history's not on my side. Even though I realize the pioneer skin still curls up in my eyes. If I don't go crazy, I lose my. Step out of the shadows. A drugged up heart that knows no sorrow. Rescue from this deep dark hollow. Stick on these boots and sharpen the nails. Time is not for your leather girls. Maybe we should end this race. Vanish while we can and leave no trace. If I don't go crazy, I lose my mind. I saw the light before. Tattoo faces, I assume you're also on the corner. Tupperware boxes full of hearts, diazepam tubes that catch in streams. Paper dinosaurs, glass blue and green. Still I've got a flashbulb here. Still I've got a flashbulb. If I don't go crazy, I lose my mind. I saw a light before me, but now I'm blind. I wanna go to heaven, never been there before. La voce, questa è famosissima. Io senti veramente che voce. La sogno la notte. Senti voce. Che voce, di chi è Marzi? No, guarda, non me la sento. Già pensare il nome de... C'hai i brividi lungo la schiena, vero? Sì, sì, si rizzano tutti i peli delle orecchie. Sì, che peraltro potete vedere tra pochi secondi. Altro particolare, perché il computer si rifiuta questi di pubblicarle. Simpatici amici stanno comunque creando un puzzle di me stesso. Certo, comunque la voce era quella di Liam Gallagher. Però mica gotica. Il gruppo di Liam Gallagher, i famosi. You Irish. Sai che io non lo sapevo. Io tutti quelli che sono stati a Sanremo almeno una volta nella vita li conosco. Quindi da Giacomo Rondinella a salire. Bravo. Hai visto? A proposito di amici, eccetera, vorrei salutare un po' di amici che ci stanno seguendo. Ma siamo arrivati a 200. Siamo ancora molto vicini. Molto vicini. Vi prego, contattate i vostri amici, fate un po' di passaparola. Salvateci. Un saluto a Roberto, a Egidio, a Monica e a Clara che ci stanno seguendo, Paola, Andrea. Da dove? Insomma, da dove ci stanno ora, seguendo? Ce lo devono scrivere. Abbiamo amici lontani che ci hanno detto. Sì, io sì, stasera vi ascolto. Permettetemi di salutare Giacomo e Valentina da San Sepolcro. Ah, va bene, ok. Sì, è un'altra vallata. No, questa nebbia che c'è non è vicina, non è comodissima. No, in effetti, sì, è vero. Ma ritorniamo a noi. È vero. Ma sì, ritorniamo a noi perché c'era un motto da dire. Noi eravamo rimasti lì, ma il motto. Ah, non l'avevo detto, è vero. Sì, ero andato completamente in confusione. Taratata. Allora, il motto era del famoso gruppo I Lumacons, che negli anni 70 e i primi 80 hanno spopolato a Foiano e tanto hanno dato al nostro paese. Ma ve ne parleremo in un'altra puntata. In un'altra puntata, però il loro motto era famosissimo, era Fiorin Fiorino, Fiorin Fiorello, se mi disturbi, taiusso il bove. Anche volendo, a me piace. Vabbè, ci abbiamo provato. Io vorrei che tutti gli amici che ci ascoltano venissero qua, sì, perché Marcello, io lo vedo pronto a rispondere a un'altra domanda. Una alla volta, no, certo, perché, per amore del cielo. Cioè, ti spiego, Enzo. Non è proprio voglia di apparire saccente. È che questa ricerca nella preparazione del nostro programma mi ha fatto capire che abbiamo delle radici veramente profonde. No, beh, tra l'altro, abbiamo appena pubblicato sulla pagina Facebook il particolare di Marco. E voi con queste facezie mi state disturbando. Il tuo abbigliamento è un caso di cultura, Marco. È un caso di abduction. Eccolo pubblicato. Mamma mia, ecco, quella è la magliettina. Quella blu, famigerata, blu notte. Quella che potrete vedere. La metto perché sennò se mi freddo mi viene il raffreddo. Quella è nuova. A tal proposito, vorrei ricordare agli amici, visto che staranno su Facebook adesso a guardare le nostre pagine, che domani troveranno la trasmissione registrata e potranno dire agli amici non bastato che stasera, sfortunatamente non hanno potuto seguire, che potranno farlo domani. Ma veniamo alla prossima domanda. Ma ci devono riascoltare anche domani. Perché al peggio non c'è mai limite. Infatti, che c'è detto anche da te la dice lunga. Bene, allora ragazzi, a vi questo ho punto parlato direi che no, di vabbè, Porta del Castello. Ok, che è l'unica porta della vecchia cinta di mura. Prima cinta di mura. Perfetto. Allora, vogliamo parlare anche delle altre, di quelle un pochino più nuove. Allora, attenzione, io direi di partire. Fammi pensare un attimo, no, ma perché non ti sforzare troppo, no, adesso mi devo concentrare, Marzio, altrimenti vai. Su. Ecco, allora io direi che potremmo partire da, non so, Porta Senese, che ne dici? A me tanto cara, ecco. Porta Senese. Suonare però anche non ha suonato. Mi tocca, la so. E io sono legatissimo a Porta Senese. Hai toccato, e ti spiego anche il perché. Perché? Vogliamo sapere perché. Devi sapere, però, Sara, non cose troppo personali. No, assolutamente. Che Porta Senese è la porta che si trova nei pressi della collegiata, come la Porta del Castello. Cari ma fa amici. Parte cioè, della è sempre seconda lì. Cinta non ho capito, muraria. Cioè una porta dentro devi una porta. Devi capire che passettino dopo passettino si arriva a casa mia. Quindi è per questo. Ecco, adesso ho capito che eviterò questa zona di Foiano della Chiana. Bene. No, ma questo programma è importante per sapere quali sono i luoghi da visitare. Ah, però hai visto come passa il tempo quando siamo insieme? Perché la Porta Senese è importante. Prima di tutto non la conosce nessuno con questo nome, perché infatti è più nota a tutti come Porta dei Ghiacci. E perché lo si intuisce facilmente dal nome, infatti è sicuramente il punto più freddo del paese e tutto il ghiaccio che si sente in piazza della collegiata pare che entri da lì. Ma un'altra cosa, perché è proprio fredda questa zona? Ma la cosa più importante è che la Porta dei Ghiacci è anche famosa perché sta cambiando dimensioni, perché qui nell'anno 1500-1400 quando l'ha costruita aveva delle misure. Adesso tende ad allargarsi perché, essendo leggermente in discesa e in curva, gli automobilisti erodono i mattoni che stanno lì accanto, e uno dei più grandi contribuenti a questa erosione è Marcello. Lo facciamo a immagine della nostra auto. È Marzi, grandioso. We'll be right back. You make me sick. I see through you. I see through you. I'm gonna do it again. I'm gonna do it again. You make sure you're connected, the writing's on the wall. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Ain't gonna go blind. I'm gonna get myself connected. I ain't gonna go blind for the light that is reflected. Hear me out. Can you hear me out? Can you hear me out? Someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole called reality. Wanna do it again? I'm gonna do it again. Wanna do it again? Come on, I'm gonna do it again. Tutti insieme. Tutti in pista. Bene, allora questa era Connected se e si è scatenato anche Marzi. Veramente. Marzi, e pensate che questa è nella questo brano è nella classifica delle 20 hit dance di sempre. Quindi, cioè, voglio dire, lo vogliamo fare un applauso al nostro bravo tecnico Simone. Bravo, si è cominciato ogni sera meglio. Si è sciolto. La musica io direi è fatta. Che Simone si è sciolto, perché voglio dire, questo slancio dance, e questo è un problema. Secondo sondaggio telefonico su chi si diverte di più ascoltando questa trasmissione. Sara è stupenda, ogni sera meglio. È stupefacente, come diceva. Siccome stasera non c'è bastato il tempo, proviamo a parlare degli ultimi allora, due porte rimaste. Allora ragazzi, a questo punto tempi strettamente radiofonici. Sono rimaste due porte, quindi rapidi, diretti la e concisi. La prossima puntata io voglio parlare delle finestre. Perfetto, allora ragazzi, tutti pronti? Allora, vorrei che voi mi parlaste di Porta Cortonese in primis. Brevemente. Allora, Porta Cortonese è quella che dà su Piazza Garibaldi, detto il piazzone, E tra l'altro, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, bravo, fa parte della seconda cinta di mura ed è l'unica porta torre rimasta praticamente intatta. Forse c'è una piccola modifica, anzi sicuramente c'è una modifica sul tetto, però si possono notare condonata. Ancora i merli e tutto il fatto che non sia stata in nessuna parte intonacata. Ma andiamo con la prossima porta, cioè come si è ancora vista. Sono tutti mattoni. Ti faccio un disegnino. A vista, mattoni a vista. Sì, certo. Ingresso porcellanato di Vasariana Memoria. Di Vasariano stile. Ma un bagno di Vasariano Memoria? Il bagno no, perché direi che non c'era ai tempi di Vasari. Il bagno no, era fuori. Se avete necessità di arredare casa e volete qualche consiglio, telefonateci o scriveteci. Perfetto, su. E soprattutto voi due adesso mi parlate anche di Porta Fiorentina, in chiusura, rapidi. No, di Porta Fiorentina non possiamo. Direi che Porta Aretina potrebbe andare. Direi che ed è alle volte invece Porta Aretina numero uno. No, ma Porta Aretina potrebbe essere semplice. Ma lui è partito. Ma io non ho fatto la domanda. È semplice e complicato al tempo istante. Riprendiamo le fila. Dobbiamo chiudere in maniera insomma degna no, del nostro programma. Allora sta andando bene così. A posto, quindi era in realtà Porta Aretina. Allora dicevo, quando mi avete giustamente interrotto, che può essere semplice o anche difficile. Porta Aretina guarderebbe verso Viale Umberto I. Perché guarderebbe? Perché questa porta torre non esiste più, scusa, in quanto è stata abbattuta nei primi anni del Novecento, perché si pensava in questo modo di incentivare così anche l'economia del paese, facilitando l'entrata nel paese e quindi anche l'uscita, perché una volta che entri esci anche. Lo scopo era dire che col senno di poi è stata una delle idee meno azzeccate, perché effettivamente pare le cronache di Narnia ci dicono che fosse una delle porte più belle, e noi la metteremo, noi ce la ricordiamo, un minuto, la vogliamo ricordarla silenzio, così ricordiamola così, bravo, sì. Un minuto di silenzio, no. Grazie. Anche voi unitevi al nostro cordoglio. Direi che è arrivato il momento, perché l'orologio segna le 23. Simpatici amici, è il momento di andare. Sì, Marzi c'ha il coprifuoco, insomma deve rientrare perché c'è il permesso, quindi non possiamo sforare. Un'ora d'aria, sì, un'ora, la posso un'ora scegliere in tutti. Sì. Il giovedì ce l'ho, sento dalle 10 alle 11. Sì, sento il tecnico che ci sta tagliando. anche questa va rivista. Simpatici amici, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Per domani, una puntata speciale invece, di Natale. Esatto, la puntata speciale di Natale. Domani ci potrete riascoltare sulla pagina Facebook. Come l'argomento? È lo speciale Natale. Quando Babbo Natale ha dormito a Foiano. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di Radio F di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone.